vieni, sta per iniziare! Dai! Non perderti il meglio per colpa di tosse e gola irritata. Ascolta Radio Virus! Ciao, qui Byron, stai ascoltando Radio Virus, Caravan, puntata 3. Io ho un segreto e tu no. Io ho un segreto e tu no. Io ho un segreto e tu no. Io ho un segreto e tu no. I'm calling a guy like you. She wrote a warning. You are dangerous. I'm loving it. There's no escape. I can't wait. Baby, give me a hint. You are dangerous. I'm loving it. Thank you.

io, più che fare un discorso sulle mascherine, ritengo che noi dobbiamo adottare e saremo sempre più costretti ad adottare dei comportamenti di distanziamento sociale. Come vedete, io non porto la mascherina, normalmente non la porto, ma non perché voglio dire che la mascherina è inutile. Cerco di rispettare le distanze che sono state poi tradotte in regole di convivenza civile. Precedenti, dottore. Violenza, atti di criminalità, ripetute violazioni del codice di emergenza permanente, arroganza, vilipendio, spregio delle autorità. Sta scontando l'ergastolo. Non credo che possa essere pericoloso. Lei non è pericoloso, vero? No, signore. Gente del comune, disinfettano contro l'epidemia. Ah! male, figlia mia! Quanti morti? Quanti morti? Sono 58. 48? No, 58. 38?